Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La crescita italiana accelera nel primo trimestre, più 0,3%, aprile in deflazione, prezzi giù dello 0,5% e debito pubblico in crescita, dice la Banca d'Italia. Sbarcati tra Sicilia e Calabria un migliaio di migranti, nel porto di Augusta sono arrivati in 800, tra loro solo due siriani, il sistema di accoglienza ha messo a dura prova. Prende un 5 nel compito in classe, la famiglia denuncia la scuola, succede a Macerata, mentre in Lombardia 40 presidi chiedono aiuto dopo l'aggressione di una dirigente. Si vendono meno libri, ma il valore cresce, il mercato riparte dai romanzi d'amore ai manuali per concorsi, emerge dalla ricerca presentata al Salone di Torino. Niente più numeri per le chiamate allo sportello, l'INAIL sperimenta in un ufficio romano i nomi di fantasia per chi è in coda: Geoide, Phobos, Nemesi, Attero. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms e per i vostri messaggi su WhatsApp. Seguite il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno, dove quotidianamente mettiamo qualche anticipazione. In apertura veniamo ai dati sul prodotto interno lordo e non solo quelli. L'economia italiana accelera e nel primo trimestre 2016 segna più 0,3%. Certo, si tratta della stima preliminare e di uno 0,10% in più soltanto rispetto agli ultimi tre mesi del 2015, ma comunque è un buon segnale, ci spiega Giampaolo Oneto dell'Istat. Si conferma che per il quinto trimestre consecutivo l'economia italiana sta crescendo, seppure a un ritmo moderato. La variazione rispetto al primo trimestre 2015 è l'1% e la crescita acquisita finora sullo scorso anno è superiore dello 0,6%, spiega l'Istituto di Statistica, che rivede al ribasso i dati sulla deflazione. Ad aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo è sceso dello 0,1% mensile e dello 0,5% annuo, maggior flessione da gennaio 2015. Contestualmente Banca Italia certifica il nuovo record del debito pubblico: a marzo più 14 miliardi rispetto a febbraio, a quota 2.228,7 miliardi. Il debito, ricordiamo, è il tasto dolente nelle discussioni con Bruxelles, visto che l'Italia vuole più flessibilità sui conti pubblici. La prossima settimana arriverà la risposta. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di economia, ci sono i dati diffusi questa mattina dall'ACEA, l'Associazione dei Costruttori di Automobili Europea. Appunto, si segna in aprile un più 9% di consegne auto in Europa e cresce ancora Fiat Chrysler e più del mercato, un più 13,6%. Veniamo alla politica, dove resta alto il dibattito su due fronti: da una parte le unioni civili, dall'altra l'indagine che riguarda il sindaco di Parma Pizzarotti. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Dopo l'affermazione del premier Matteo Renzi, ho giurato sulla Costituzione e non sul Vangelo, il centrodestra ora punta al referendum abrogativo, con il rischio però del quorum per un quesito sui diritti. Non mancano poi le proteste paradossali per l'approvazione della legge sulle unioni civili, come un prete che ha suonato le campane a morto in Molise. Esulta il PD, Monica Cirinna è sicura che il referendum sarà vinto dal fronte del sì, ma intanto continua lo scontro tra PD e 5 Stelle sulle unioni civili. E non solo, per il capogruppo alla Camera Dem Ettore Rosato sono irrilevanti perché dicono no a prescindere da tutto. Ma Rosato va anche oltre, parla degli avvisi di garanzia ricevuti dai sindaci 5 Stelle Nogarin e Pizzarotti in questi giorni. I 5 Stelle non fanno quello che dicono, dice Rosato. Quando l'indagato era un sindaco del PD si doveva dimettere e ora attaccano la magistratura. Noi continuiamo a dire che la magistratura deve fare il suo lavoro e la politica il suo. Tocca a Maglio Di Stefano rispondere a Rosato: la riforma sulle unioni civili è stata un'occasione sprecata. Oggi non ci sono più garanzie al di fuori del matrimonio. Quando non si condivide tutto il testo, in politica si usa l'astensione. Poi attacca sulle richieste. In Italia c'è un chiaro problema di corruzione che si chiama Partito Democratico. Quelle che vengono contestate a Nogarino, a Pizzarotti, sono cose completamente diverse. Si tratta di vizi di forma. Questa ovviamente la tesi di Di Stefano. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Il quadro dalle amministrative, con due fronti che hanno a che fare con la giustizia e con la candidabilità a Roma e a Milano. A Roma è attesa nel pomeriggio la pronuncia del TAR del Lazio sul ricorso presentato da Stefano Fassina, l'esponente di Sinistra Italiana, ex PD, si è rivolto ai giudici amministrativi dopo l'esclusione delle due liste che sostengono la sua candidatura a sindaco della capitale. La commissione elettorale le ha bocciate per vizi di forma legati ai moduli utilizzati per la raccolta delle firme. Alcuni erano di un modello non più in uso e in altri invece non era indicata la data. Sempre sulle amministrative è guerra di carte bollate anche a Milano. Nel capoluogo lombardo il candidato sindaco dei radicali Marco Cappato e quello del Movimento 5 Stelle Gianluca Corrado annunciano ricorsi al Tribunale e al TAR per fare chiarezza sulla presunta incandidabilità di Giuseppe Sala. Secondo il settimanale Panorama, il candidato del centrosinistra non può correre per la poltrona di primo cittadino perché non si sarebbe mai dimesso da commissario di Expo. Un'accusa surreale, commenta Sala, che con molto fair play viene invece giudicato supercandidabile dal suo avversario di centrodestra Stefano Parisi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La questione dei migranti: il numero degli arrivi ha superato lo scorso aprile per la prima volta dal giugno del 2015 quello degli arrivi in Grecia, lo ha reso noto Frontex. Gli arrivi in Grecia sono stati, secondo l'Agenzia per il controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea, circa 2.700, il 90% in meno rispetto al mese precedente, mentre quelli registrati nel Mediterraneo centrale sono stati 8.370. E oggi la Sicilia, alle prese con lo sbarco di circa 1.000 persone, la cui nazionalità è ancora da definire, tra loro anche alcuni siriani, a quanto sembra pochi, provenienti dalla Libia e dall'Egitto. Non si tratta di una nuova rotta, quella dall'Egitto, sono numeri che ci aspettavamo, anche l'anno scorso andò così, racconta Carlotta Sami, portavoce dell'UNHCR, al microfono di Cristina Carpinelli, sentiamo. Sono circa 1.000 perché sono diverse operazioni, alcune barche che stavano arrivando dall'Egitto e altre invece in operazioni che provenivano dalla Libia. Ancora presto per definire le nazionalità, ci sono molti minori stranieri non accompagnati, minori soli. Lei che idea si è fatto? È cambiata proprio la rotta? Stanno facendo un percorso molto più pericoloso? Non sono le stesse nazionalità che attraversavano, diciamo, la rotta dalla Turchia alla Grecia, per cui non vediamo una diretta conseguenza, diciamo, fra la chiusura di quella rotta e questa. Resta il fatto che la maggior parte degli arrivi in Italia provengono dalla Libia. Sono diverse settimane che vediamo dei barconi provenienti dall'Egitto ed era già accaduto anche negli anni scorsi. L'aspetto più preoccupante è che di solito questi barconi sono molto grandi, con centinaia di persone a bordo, e fanno una rotta molto lunga, che quindi aumenta la pericolosità e i rischi, perché stanno alla deriva per giorni. C'è un aumento abbastanza consistente di minori stranieri non accompagnati, soprattutto di nazionalità egiziana, sì. Purtroppo chiaramente sono a rischio di abusi, sono a rischio di sfruttamento, c'è il rischio che si allontanino. Voi come UNHCR cosa continuate a chiedere perché questa situazione si sani? Noi continuiamo a chiedere apertura consistente e credibile di canali legali sicuri per far arrivare in Europa i rifugiati, innanzitutto i rifugiati siriani, ma non solo. Ieri la scarcerazione di uno degli accusati di terrorismo arrestati nei giorni scorsi. Qualcosa nell'indagine evidentemente non ha funzionato, l'analisi di Daniele Biacchessi. Hakim Nasiri è un afghano di 23 anni. Giorni fa viene bloccato dai carabinieri di Bari su disposizione della DDA con un'accusa gravissima: associazione finalizzata al terrorismo internazionale di matrice islamica. Sul suo conto sembrano esserci indizi, prove schiaccianti. Invece no. Invece il GIP Agnino convalida il fermo, ma rigetta la richiesta di applicazione di una misura cautelare. Video troppo brevi, foto di monumenti del patrimonio culturale mondiale non costituirebbero, secondo il giudice, immagini carpite per pianificare attentati terroristici. Nell'ordinanza il GIP fa riferimento ai video relativi ai centri commerciali hotel di Londra, fotogrammi del Circo Massimo, del Colosseo, due video all'interno dell'aeroporto e dell'Ipercop di Bari. A questo punto della storia viene a pensare che o i giudici interpretano nei tribunali il reato di terrorismo internazionale, dunque una legge dello Stato, a loro piacimento, o gli indizi trovati dagli investigatori italiani intorno alle attività di alcuni jihadisti sono insufficienti, oppure le persone arrestate sono semplicemente innocenti, quindi le inchieste sono totalmente sbagliate. Il caso di Hakim Nasiri però non è il primo e non sarà neanche l'ultimo. Ad esempio, l'ex magistrato, esperto di terrorismo, terrorismo, Stefano D'Ambrosio, oggi auspica giudici specializzati sui reati di terrorismo. È probabilmente vero, ma allora non sarebbe meglio risolvere le contraddizioni evidenti all'interno della magistratura e degli investigatori? Il capo degli Hezbollah libanesi, veniamo alla Siria, Mustafa Badreddin è stato ucciso proprio in Siria, l'ha riferito il gruppo militare in un comunicato. Nella nota si precisa che Badreddin era in Siria per combattere contro gruppi estremisti senza fornire ulteriori dettagli. L'emittente libanese vicino agli Hezbollah, Al-Mayadeen TV, ha poi precisato che sarebbe morto in un raid aereo israeliano. E proprio a proposito di Siria, di pochi istanti fa la notizia che il governo belga ha deciso di ampliare al territorio siriano il campo delle operazioni contro l'ISIS condotte dai suoi F-16. Fino ad ora il governo belga, o meglio il Belgio, aveva colpito in Iraq. Siamo alla cronaca, innanzitutto con un'ultima ora che arriva da Pordenone. Una donna e un bambino sono stati trovati morti all'interno di un'automobile finita in un laghetto alla periferia della città. I cadaveri sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco, sono al momento in corso accertamenti. E restando sulla cronaca, veniamo alla requisitoria del PM nel processo Yara. Anna Marino, buongiorno. Sì Simone, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. È il giorno decisivo per la requisitoria dei PM e si stringe il cerchio al processo Massimo Bossetti. Si avvicina l'ora della verità per Massimo Giuseppe Bossetti, in carcere da 2 anni con l'accusa di aver ucciso la 13enne Yara Gambirasio. Dopo 40 udienze il processo sta arrivando alle battute finali, a quasi un anno dal via inizia la fase appunto del dibattimento con le richieste delle parti. Nel corso dell'ultima udienza la Corte d'Assise aveva bloccato le 5 richieste di perizia avanzate dagli avvocati di Bossetti. In pratica ciò che è emerso finora può essere sufficiente per giudicare l'imputato. La bocciatura più pesante è stata quella sulla richiesta di perizia sul DNA, la prova Regina, trovato sul corpo della ragazzina che le indagini hanno attribuito al carpentiere di Mapello, per la quale lui era finito in carcere il 14 giugno del 2014. Nell'udienza di oggi al Tribunale di Bergamo, ora in corso, come dicevi, spazio al pubblico ministero Letizia Ruggeri, che molto probabilmente, forse nel pomeriggio, chiederà la pena massima per Bossetti, ossia l'ergastolo, con l'accusa di omicidio aggravato dalla crudeltà. Il PM nella requisitoria iniziata appunto da qualche ora ha detto che nelle fasi iniziali dell'inchiesta sull'indagine ci spaccammo, dice, la testa, ipotizzammo di tutto, da scambio di persona a rapimento, e che Yara Gambirasio non morì nelle fasi immediatamente successive all'aggressione ma nelle ore successive, anche se stabilire la durata della sua agonia non è stato possibile. La tredicenne, ha ricordato il PM di Bergamo, morì per una concausa delle lesioni subite per il freddo, avrà provato, ha detto, paura e dolore. Il PM sta ricostruendo con minuzia tutti i passaggi dell'indagine, dalla scomparsa di Yara il 26 novembre del 2010 al ritrovamento del corpo esattamente 3 mesi dopo. Ci saranno poi un paio di udienze dopo l'8 giugno, le repliche delle parti, la sentenza decisiva. Per ora è tutto. E grazie Anna Marino per questo aggiornamento. Ha confessato, restiamo sulla cronaca, il figlio adottivo della coppia uccisa in Sardegna. Ha confessato l'omicidio dei suoi genitori, Igor Diana, il figlio adottivo della coppia uccisa in casa a Settimo San Pietro, in provincia di Cagliari. Il 28enne di origine russa avrebbe ucciso Giuseppe Diana, 67 anni, e Luciana Corgiolu, 62, tra domenica sera e lunedì. Poi sarebbe rimasto in casa con i cadaveri dei genitori lunedì e forse martedì, mentre avrebbe trascorso il tempo in auto, probabilmente nelle campagne del Sulcis, dopo il ritrovamento dei corpi avvenuto mercoledì mattina. Angoscianti i particolari del delitto, il giovane avrebbe colpito i genitori a bastonate per poi finirli con un coltello. Dopo 35 ore di fuga è stato rintracciato ieri sulla provinciale 293 nei pressi di Nuxis, paese del Sulcis. Dopo un inseguimento in auto ha provato a fuggire a piede, quindi avrebbe tentato di sparare con la pistola del padre agli agenti che hanno risposto al fuoco ferendolo alle braccia. Durante la notte nell'ospedale di Iglesias la confessione. Il movente ancora non appare chiaro, anche se di sicuro da tempo la situazione in famiglia era difficile con diversi momenti di tensione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Scioperano a Roma i vigili. Un ordinario venerdì di sciopero nella capitale. Traffico e autobus nel caos nei dintorni del Circo Massimo e del Colosseo, dove si svolge la manifestazione dei vigili urbani. In piazza centinaia di persone con bandiere e striscioni di diverse sigle sindacali. Fra le richieste dei caschi bianchi in corteo dal Circo Massimo fino a Piazza Venezia, l'inserimento nelle categorie dei lavori usuranti, che li porterebbe ad avere una pensione privilegiata, il monitoraggio delle malattie professionali e il bonus mensile di 80 euro al pari delle altre polizie di Stato. Le maestre di nidi e scuole dell'infanzia protestano invece davanti al Ministero della Pubblica Amministrazione invocando la stabilizzazione del personale precario. A loro si uniscono i dipendenti comunali che chiedono la riduzione dell'orario di lavoro a stretto contatto col pubblico. Dania Di Bitonto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al Salone del Libro di Torino, dove oggi sono stati presentati i dati che a quanto sembra sono buoni. Alessandra Tedesco è così, buongiorno. Buongiorno Simone, sì, sono buoni, diciamo che c'è sia un segno più che un segno meno, quindi vediamo come interpretarli. Nei primi 4 mesi del 2016 c'è un più 0,1%, lo so, è quasi, diciamo, stabile il mercato a valore, cioè come introiti delle case editrice. Però c'è un segno meno, cioè continuano a diminuire le copie vendute, 800.000 in meno rispetto allo stesso periodo del 2015, quindi meno 3,4%. Però che cos'è che fa, diciamo, un po' sorridere gli editori? Quel segno più che non si vedeva da un bel po' di tempo. Il 2015 si era concluso con un più 0,7, ma proprio grazie al periodo natalizio. Come interpretare questo paradosso? Allora, da una parte possiamo dire che è un po' aumentato il prezzo di alcuni libri, dall'altro i lettori non comprano più i libri low cost, tipo libri, non so, da 1 o 2 euro, fenomeni ciclici che si esauriscono in pochi anni. E vediamo che cosa sta invece trainando il mercato, insomma, che cosa si vende di più a livello proprio di volumi. Allora, innanzitutto i romanzi d'amore, compresi i cosiddetti young adult, fenomeni del tipo, non so, Anna Todd o Jerry Maguire, molto amate dalle ragazzine. Poi libri sulla cristianità, e qua l'interpretazione è facile, il fenomeno Papa Francesco. Infine, della cosa che stupisce di più, stanno trainando il mercato i testi per la preparazione di esami e concorsi. E infatti basta vedere le classifiche delle ultime settimane per vedere che sono andati in classifica fra i primi 10 più venduti. Stanno andando invece peggio, insomma, sono in calo la narrativa, tranne quella di genere. Per intenderci, i gialli vanno sempre bene, vanno meno bene i romanzi erotici, perché si è un po', diciamo, concluso il ciclo delle sfumature di grigio e similari, e sta anche un po' calando la vendita dei libri food and drink, forse per, diciamo, la saturazione del mercato. Ultimo dato per quanto riguarda gli ebook: cresce il fatturato nel 2015 del 26%, siamo a un fatturato di circa 51 milioni di euro, comunque come quota di mercato siamo intorno al 4%, quindi ancora quote di mercato molto, molto relative. Ti ringrazio, grazie Alessandra Tedesco per questo aggiornamento. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, e poi in realtà lo faremo anche dopo, perché c'è una circolare di qualche giorno fa del Ministero dell'Interno che dice che l'omicidio stradale, la nuova legge, può essere applicato anche per la scarsa manutenzione delle strade, e quindi ci sono una serie di amministratori locali letteralmente nel panico perché rischiano l'incriminazione. Parleremo col sindaco di Ferrara, una provincia nella quale ci sono parecchi problemi da questo punto di vista, un'alta incidentalità, e ha lanciato un grido d'allarme, addirittura ha detto dovesse succedere chiameremo in correo il ministro Padoan perché non abbiamo i soldi per rimettere a posto le strade. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di economia con i dati sul prodotto interno lordo che accelera nel primo trimestre un più 0,3%, mentre cresce il debito pubblico. Abbiamo parlato di immigrazione, poi ci torneremo più avanti con i 1.000 sbarcati oggi tra Calabria e Sicilia. Abbiamo parlato dei dati che arrivano dal Salone del Libro di Torino e l'abbiamo fatto poco fa. Abbiamo parlato di politica con l'attesa oggi per Stefano Fassina a Roma per sapere appunto se si potrà candidare, e ancora del dibattito sulle unioni civili. E adesso ci occupiamo di strade e di una circolare, come vi accennavo poco fa, che è arrivata qualche giorno fa dal Ministero dell'Interno e che dice in sostanza che le nuove norme sull'omicidio stradale sono applicabili non solamente ai cosiddetti pirati della strada, a quelli che magari ubriachi o magari senza patente investono una persona e poi scappano via, no, è applicabile anche per la scarsa manutenzione delle strade. Un problema molto sentito, e da qua iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia, dalla provincia di Ferrara. E siamo in linea con il sindaco, che è anche presidente della provincia nella nuova modalità, nella nuova disciplina, che è Tiziano Tagliani. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, buongiorno. Lei ha detto addirittura dovesse succedere, chiamiamo in correo il ministro Padoan. Lo dice il codice penale, nel senso che gli amministratori, i dirigenti degli enti pubblici sono sempre stati perseguibili quando sulle strade si presentavano insidie. Questo non è mai stato un problema ed era anche giusto, perché se c'è dell'incuria va perseguita. Il tema è che oggi si applicano agli amministratori e ai dirigenti, ad esempio delle province, delle norme che comportano la reclusione fino a 12 o a 18 anni nei casi più gravi, in presenza di una normativa che di fatto sta impedendo a tutte le province italiane di approvare i bilanci. Quindi se il governo impedisce l'approvazione dei bilanci delle province è complicato per noi poi dopo non dire che questo rappresenta una difficoltà obiettiva nell'assolvere i compiti che oggi questa normativa ci impone. Certo, senta una cosa, Tagliani, mi sembra di aver capito che il vostro problema sia particolare, proprio per la struttura della vostra rete stradale e per il fatto che ci sono molti canali spesso senza protezione, l'incidentalità per uscita di strada è molto elevata, no, nella vostra area. La provincia di Ferrara, ma anche in alcune tratti stradali dell'ANAS, è una provincia molto complessa perché è una provincia molto estesa, quindi la rete delle strade provinciali è di quasi 900 chilometri, ma ci sono comuni come il comune di Ferrara che ne ha altrettanti 800, quindi le risorse che dovrebbero essere necessarie per far fronte a una corretta manutenzione sono ingenti, non sono mai state completamente all'altezza, ma oggi sono largamente insufficienti per via di una programmazione finanziaria che di fatto alle province oggi non assegna le risorse neppure per chiudere i bilanci in questo momento. Tra l'altro ho letto che lei in veste di avvocato ebbe a difendere anche dei, non so, dei dipendenti, dei dirigenti o qualcuno del comune di Comacchio proprio per questioni che riguardavano le strade. Vabbè, questo è il mio lavoro, in passato ho fatto... Ho fatto questo lavoro, lo continuo in parte a fare, quindi so qual era la normativa, so qual è la normativa in vigore fino a poco fa, e da applicare ai dirigenti una normativa così severa ha un senso se si dotano però i pubblici amministratori delle risorse che sono necessarie per poter misurare la loro diligenza, non per renderli di fatto impossibilitato a loro la possibilità di altrimenti diventa davvero una speculazione, diciamo così, non accettabile. Un'ultima cosa, Tagliani, è arrivata già qualche denuncia o no? No, purtroppo gli incidenti, per fortuna in questi giorni non mortali, purtroppo sulla rete stradale italiana sono all'ordine del giorno, quindi è chiaro che quando ci sono incidenti, se è ravvisabile comunque un concorso nell'evento derivante dalla carenza di manutenzione della strada, è automatica l'estensione della responsabilità agli amministratori pubblici. E rischiate fino a 18 anni di carcere, in sostanza. Assolutamente sì. Se lei pensa che il presidente della provincia lo si fa gratuitamente, questo dimostra che siamo un paese con dei tratti di originalità particolarmente spiccati, diciamo così. La ringrazio, grazie Tiziano, grazie Tagliani, sindaco di Ferrara e presidente della provincia di Ferrara. E adesso da Ferrara ci spostiamo in centro Italia e ci spostiamo a Roma, dove l'INAIL sta facendo una sperimentazione. Quante volte siete stati in coda in qualche ufficio pubblico dovendo prendere il vostro numeretto e poi o leggere sullo schermo o essere chiamati per numero? Il tal numero è atteso allo sportello 5. Invece potrebbe andare così. Già avete atteso lo sportello 7. Eczema atteso lo sportello 15. Allora ci si gioca un po', Paolo Guidelli, direttore dell'organizzazione digitale INAIL. Buongiorno. Buongiorno, purtroppo non sono direttore, ma direzione, soltanto professionista. Fa parte della direzione. Ci si gioca un po', perché avete tentato questa sperimentazione all'interno del vostro ufficio in piazza 5 giornate a Roma, di sostituire i numeri con dei sostantivi, come nel caso di Geoide appunto, o dei nomi come per esempio Phobos. Nel pezzo scritto oggi al Corriere della Sera si parla anche di eczema, babbeo, zotico, infame, befana, coatto, killer, macaco, puparo, ma a quanto pare in realtà questo era solo un divertissement di qualcuno che ha passato questo file Excel al collega, e in realtà non è così, cioè nessuno verrà chiamato babbeo allo sportello 5. Però ci spiega esattamente perché avete pensato questa cosa? Io partirei innanzitutto dall'idea di progetto. Effettivamente quello che avete detto è quello che abbiamo messo in pista e crediamo molto come INAIL su questo progetto. Abbiamo abbandonato i numeri in favore delle parole di senso compiuto, e lungi da noi l'idea di utilizzare parole di genere offensivo nei confronti di persone. Sì, perché qua nel pezzo era citato anche Zotico, anche quello sarebbe affascinante. Zotico allo Sportello 5. Quello nasce da un misunderstanding di percorso, nato dalla condivisione di un file che rappresentava un'elaborazione intermedia di progetto invece del file definitivo con la lista completa di parole. Comunque la scelta di percorrere la strada delle parole piuttosto che dei numeri è relativa alla complessità dell'istituto e del enorme portafoglio di prestazioni che eroga nei confronti del lavoratore infortunato oppure della parte datoriale. E quindi quando un utente si trova a entrare dentro la sede dell'INAIL può risolvere tutto con una semplice visita a uno sportello, oppure si può trovare nelle condizioni di dover girare attraverso più sportelli dell'istituto. Se posso rubarle un attimo, faccio un esempio. Un infortunato che si presenta per essere analizzato dalla struttura medica sanitaria dell'istituto sicuramente viene accolto dalla componente infermieristica che fa un triage. In funzione di questo triage viene definito un percorso personalizzato per tale utente che può prevedere per esempio di passare dal radiologo, quindi dall'ortopedico e concludere magari il ciclo dal medico legale. Ora, forti di questa esperienza e coscienti dei processi interni che sono necessari all'utente per interagire con l'istituto, ci siamo trovati facendo l'analisi del progetto nella situazione in cui a fronte del numero 27 servito in ortopedia poteva succedere che veniva chiamato il numero 7 successivamente. Proprio perché i tempi di latenza della persona, di permanenza della persona all'interno della, della sede INAIL sono diversi a seconda delle occorrenze. Quindi invece questo vi consente un'identificazione, è più facile il lavoro anche per gli impiegati, è più facile la comprensione del percorso che fa una persona. Un ascoltatore molto cattivo su WhatsApp ci scrive: è solo un modo per continuare a prenderci in giro, se non sappiamo quanti numeri abbiamo davanti non riusciamo ad incacchiarci. No, assolutamente. In merito alla trasparenza, è vero che con una sequenza logico-numerica uno ha immediatamente evidenza di quante persone ha davanti, ma la stessa cosa avviene con le parole, perché il sistema è congegnato con un totem multimediale all'interno del quale basta passare il QR code ricevuto tramite app oppure la schedina e in qualunque caso, in qualunque momento si sa esattamente qual è lo stato della coda e quindi quante persone si hanno davanti. Quando avete iniziato? Abbiamo iniziato con uno dei nostri centri di eccellenza, l'INAIL, cioè il centro protesi di Corso di Burio nell'ottobre 2015 e quindi abbiamo proseguito con una struttura particolarmente complessa come quella di Roma Centro, in piazza 5 giornate. È una struttura particolarmente complessa perché ha più anime all'interno, nel senso che eroga servizi oltre che sanitari, quelli classici di una sede INAIL, anche quello del centro polidiagnostico. E quindi, per certi versi può essere anche esemplare per altre strutture. Allora la ringrazio, grazie a Paolo Guidelli che tra l'altro insomma ci ha chiarito che non verremo chiamati babbei o zotici allo sportello dell'INAIL. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati come sempre. Nella seconda parte della trasmissione ci sposteremo prima a Milano perché nei giorni scorsi è stata aggredita una dirigente scolastica, adesso è stato firmato un documento da 40 dirigenti scolastici della Lombardia che dicono: attenzione, siamo in trincea, ci sono dei pericoli. Tutto questo in una giornata nella quale apprendiamo, notizia che arriva invece a Macerata, che due genitori hanno denunciato la scuola perché c'erano dei lavori dentro la scuola durante il compito in classe, il figlio ha preso 5 e hanno deciso di presentare denuncia in procura. E poi andremo ad Augusta, dove, come vi abbiamo raccontato, sono sbarcati molti migranti. Parleremo con l'assessore alla Protezione Civile per farci raccontare un po' che cosa succede e tra l'altro là in porto. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: la crescita italiana accelera nel primo trimestre, più 0,3%, ma aprile in deflazione, prezzi giù dello 0,5%, debito pubblico in crescita, dice la Banca d'Italia. Sono sbarcati tra Sicilia e Calabria un migliaio di migranti nel porto di Augusta, sono arrivati in 800, tra loro solo due siriani, messo a dura prova il sistema di accoglienza. È attesa per il pomeriggio la decisione del Consiglio di Stato sulla candidatura di Fassina a Roma, mentre a Milano i radicali presenteranno l'esposto sulla candidabilità di Sala. Si vendono meno libri, ma il valore cresce, il mercato riparte dai romanzi d'amore ai manuali per concorsi, emerge dalla ricerca presentata al Salone di Torino, la Borsa. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... Effetto giorno. Parliamo di scuola adesso e nel nostro giro per l'Italia andiamo prima a Macerata solamente con una notizia che vi voglio dare perché in qualche misura è correlata e l'abbiamo pescata sul resto del Carlino di oggi. Una vicenda che arriva da una scuola di Macerata dove un ragazzo ha preso 5 in un compito in classe e i genitori hanno deciso di presentare denuncia ai carabinieri. Perché? Perché dicevano che in quelle ore c'erano dei lavori a scuola, c'era troppo rumore e quindi il 5 nel compito in classe è dovuto evidentemente a questo troppo rumore. La preside spiega che in realtà... si stavano montando le impalcature in un'altra parte della scuola, che quella classe non ha nulla a che fare, e però dà la misura un po' di quello che sta succedendo, così come dà la misura di quello che sta succedendo quello che è accaduto a Milano in Viale Romagna, dove una dirigente scolastica ha ricevuto uno spintone, un pugno in faccia, si sta cercando chi possa essere stato. Fatto sta che questo ha generato un documento firmato da 40 dirigenti scolastici della Lombardia che dicono: siamo in trincea, non ce la facciamo più. Abbiamo in linea con noi Massimo Spinelli, che è presidente dell'Associazione Presidi Lombarda. Spinelli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Cosa vuol dire essere in trincea e perché? Ma sì, sicuramente i dirigenti scolastici si sentono in prima linea perché quotidianamente sono costretti a lavorare in condizioni disagevoli e a risolvere una quantità incredibile di problemi dovuti ad un sistema complesso, farraginoso, che meriterebbe soltanto di essere aggiornato, ammodernato e alleggerito notevolmente. Però qua mi sembra, Spinelli, che stiamo parlando essenzialmente di un tema di rapporto con i genitori e con gli utenti della scuola, in questo caso anche i ragazzi evidentemente. Sì, ma non è soltanto il fatto in sé gravissimo, andrà accertato per le sue strade. Ovvio. Il problema è che il fatto è il segnale di un malessere diffuso. All'interno di questo malessere diffuso c'è un problema di rispetto per il ruolo del dirigente scolastico che oggi i dirigenti devono svolgere all'interno della scuola, anche alla luce delle nuove competenze affidate loro dall'ultima legge sulla buona scuola. E in secondo luogo c'è un problema di rispetto per la scuola come luogo educativo, questo è fondamentale. Cioè noi siamo quotidianamente impegnati ad educare alla legalità, alla tolleranza, lavoriamo quotidianamente per l'inclusione, contro la violenza di ogni genere e contro il bullismo, e poi proprio all'interno di una scuola ci scontriamo con un episodio di vero bullismo, in questo caso agito da un adulto. Ecco, senza arrivare a questo, però, Spinelli, questa è una cosa che si verifica abbastanza di frequente, cioè i rapporti tesi tra i genitori e i dirigenti scolastici. Qual è il punto? Che non ci si affida, non ci si fida? Che succede? No, non è che non ci si fida. Una volta, come si può dire, la scuola aveva una legittimazione sociale ampia, alta e riconosciuta. Adesso una parte dei genitori, stiamo attenti a non generalizzare, una parte dei genitori invece ha un atteggiamento di tipo sindacale nei confronti della scuola. Qualunque cosa possa succedere ai loro figli può diventare oggetto di un contenzioso affidato direttamente alle maniere spicce o affidato ad un legale, ad una denuncia, ad un contenzioso comunque. Come questo è il problema. Fa parte dei tempi. E questo è il problema, come abbiamo raccontato poco fa con l'episodio di Macerata. Grazie Massimo Spinelli per essere stato con noi. Maria Francesca Giovagnello, assessore ai servizi sociali del Comune di Augusta, con delega alla Protezione Civile. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, mi trovo qui al porto commerciale di Augusta dove c'è stato l'ennesimo sbarco. Sì. Diciamo che non sono tantissimi, sono 342, però la maggior parte sono bambini, 100 minori. Non 100 minori, sono 100 non minori. Non accompagnati perché poi ci sono quelli accompagnati. Il problema nasce per il comune di Augusta sicuramente perché sono responsabilità del comune di Augusta, considerato che tutte le strutture di prima accoglienza sono... Quante persone avete accolto dall'inizio dell'anno, Giovannello? 2000. 2000 dall'inizio del problema, della problematica, 7000. Io parlo solo di minori. Solamente minori 2000? Sì. E complessivamente i numeri? E complessivamente, non so rispondere, siamo intorno ai 16000. 16000 persone. No, i maggiorenni, gli adulti, sono responsabilità, se ne occupa la prefettura. Ovviamente, e poi le redistribuisce, mentre invece i minori sono competenza del comune. Sono competenza del comune. E di fatto queste persone rimangono, diciamo, questi bambini o questi minori insistono sul vostro territorio, per così dire, rimangono là in sostanza. Allora, noi come servizi sociali del comune, i centri di prima accoglienza, considerato che da quando è iniziata l'emergenza, che ormai non è più un'emergenza, tutte le strutture sono sature. Ad oggi, per oggi, per lo sbarco di oggi abbiamo trovato solo 5 posti e verranno a prenderseli quanto prima. Strutture accreditate, parlo io. Allo scorso sbarco di lunedì, non è che è lontanissimo, ci siamo trovati 65 minori e abbiamo trovato solo 16 posti. Ora c'è una situazione ponte, grazie all'avallo della prefettura, una struttura dove vengono collocati, ma temporaneamente, ma anche quella è satura, è piena. Ieri siamo riusciti a liberare 23 posti, ma oggi se ne aggiungono 100. E non sapete come fare. Allora, io intanto la ringrazio. Grazie a Maria Francesca Giovannello per la sua testimonianza. Ricordiamo, 2000 minori dall'inizio dell'anno per un comune che ha 35.000 abitanti, quindi le dimensioni sono queste. Traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.